nascere morti, morire vivi. Qualsiasi disciplina ha un suo linguaggio. In medicina, per esempio, ci sono termini medici come otorinolaringoiatra, malattie psicosomatiche, senilità, dispnea. Nell'ambito dell'architettura troviamo termini quali abside, acroterio, trifora, mentre nel teatro troviamo termini quali regista, bagarino. Ogni lavoro, ogni disciplina, ogni settore di questa civiltà, quindi, ha i suoi propri termini, il suo linguaggio. Non possiamo pretendere che i termini di questa disciplina cambino solo perché noi non li comprendiamo, ma se vogliamo comprendere il loro significato dobbiamo compiere uno sforzo e informarci in merito al loro senso. Così è della Bibbia. La Bibbia, quale parola di Dio, appartiene al genere letterario della religione e per forza di cose anch'essa ha il suo proprio linguaggio. Il linguaggio della religione è prettamente teologico e in teologia ci sono termini che si devono imparare, come per esempio apologetica, casistica, tomismo, quietismo. Ma grazie siano rese a Dio che la Bibbia, quale libro, non contiene termini difficili e per questo è accessibile alla maggioranza delle persone. L'importante è che uno conosca un po' la lingua corrente. Questa è una verità. Anche se dobbiamo aggiungere che le parole della Bibbia, essendo vecchie di qualche millennio, non possono sempre essere comprese nel significato odierno. Quando leggiamo che nella chiesa di Antiochia c'erano dei dottori, non possiamo pensare che ci fossero dei medici che curavano gli ammalati, ma uomini che erano stati resi capaci di sondare le verità di Dio mediante lo Spirito Santo. Proprio perché vi sono delle parole nella Bibbia che possono essere fraintese, prendo in esame due termini che si trovano centinaia di volte e che noi usiamo spesso, ma devono essere compresi, perché dalla comprensione di essi dipende l'intera comprensione del messaggio di Dio. I due termini in questione sono vita e morte. Le troviamo anche in Romani 6:23 e in Giovanni 5:24. Infatti il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Cosa intende la parola di Dio quando usa i termini morte e vita? Forse qualcuno sarebbe tentato di prendere in mano un vocabolario e leggere la loro definizione. Vita, stato di attività della materia diffusa nell'universo. Morte, cessione della vita. Ma questo sistema non funziona sempre, soprattutto per la Bibbia. La ragione? È molto semplice. La Bibbia è un libro composto di tanti libri vecchi, fra i quali il più giovane ha 2000 anni. Cosa significa ciò? Significa che il linguaggio dell'uomo, col passare del tempo, pur rimanendo uguale, cambia il suo significato. E, il caso della parola apposta, inizialmente significava posto dove mettere il cavallo, in seguito luogo dove si cambiavano i cavalli e, infine, trasporto di corrispondenza. Così pure stormire, esso è riferito all'agitarsi delle foglie al vento, ma il significato originale era assaltare, fare tempesta. Infine, sempre per dimostrare come le parole cambino con il passare del tempo, il termine pietanza significava inizialmente pietà. Poi indicò il cibo che si dava in segno di pietà, appunto, ai frati questuanti. Infine, il termine è riferito alla vivanda servita a tavola. Questi esempi dimostrano come sia non solo importante, ma indispensabile capire correttamente il significato che davano all'epoca gli scrittori, altrimenti facciamo dire al testo ciò che vogliamo, ma non ciò che intende. Detto questo, quale significato avevano 2000 anni fa le parole morte e vita? Se ci fosse un vocabolario vecchio di 2000 anni, il problema sarebbe risolto, ma poiché non esiste, l'unico modo per comprendere le parole vecchie della Bibbia è valutarle secondo il significato che ne davano gli autori stessi. Cioè, dobbiamo interpretare la Bibbia con la Bibbia stessa, dobbiamo dare la parola alla parola. Prendiamo come esempio la parabola del figlio prodigo narrata nel Vangelo di Luca, al capitolo 15. Nella parabola si racconta di un uomo che aveva due figli, il più giovane, dei quali chiese la parte della sua eredità, andò lontano da casa, sperperò tutte le sue sostanze. Resosi conto del suo errore, tornò da suo padre che lo accolse dicendo ai suoi servi: «Portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei sandali ai piedi. Portate fuori il vitello, ingrassato, e ammazzatelo, mangiamo e rallegriamoci, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». Il padre disse che il figlio era morto, ma che ora era tornato in vita. Cosa significavano quelle parole? Era forse deceduto suo figlio? Tutt'altro. Egli aveva mangiato e bevuto allegramente, aveva vissuto come gli era parso, ma cor pilio, lontano dal padre. Proprio perché viveva lontano, per il padre era morto, cioè non vi era comunione, nessun rapporto, nessuna intesa. Come uno che è morto fisicamente non ha nessun rapporto con i viventi, così, nella parabola, il figlio minore non aveva comunione con il padre. In questo senso il padre riteneva il figlio morto, cioè separato da lui. Lo stesso concetto lo troviamo espresso nella lettera di Giacomo, quando scrisse: «Come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta». Un corpo è definito morto quando lo spirito si separa dal corpo, così come la fede viene definita morta quando non è coniugata con le opere. Tutto ciò che è separato, a rigor di termine, sia che appartenga all'uomo o alle cose, può essere definito morto. In quest'ottica anche la separazione dell'uomo da Dio viene definita con la parola morte. Infatti è ciò che l'Eterno Dio disse ad Adamo nel giardino dell'Eden: «Mangia pure liberamente di ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai per certo morrai». Il momento in cui Adamo ed Eva mangiarono del frutto proibito, non morirono fisicamente, ma morirono spiritualmente, nel senso che non ebbero più comunione con l'Eterno che camminava nel giardino. Prova ne è che furono cacciati fuori dal giardino. In seguito a questa morte spirituale, Adamo ed Eva, come tutta la loro discendenza, morirono fisicamente. L'Apostolo Paolo ha riassunto egregiamente questo aspetto in una sola preposizione, dicendo: «Il salario del peccato è la morte», vedendo la morte, sia quella fisica, sia quella spirituale, come la conseguenza del peccato e non come un aspetto naturale della nostra esistenza. In effetti, con una riflessione ineccepibile, l'Apostolo dimostra che tutti gli uomini sono soggetti alla morte, causa la disubbidienza di Adamo. Perciò, come per mezzo di un solo uomo, il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, così la morte si è estesa a tutti gli uomini perché tutti hanno peccato, perché, fino a che fu promulgata la legge, il peccato era nel mondo. Ora il peccato non è imputato se non vi è legge, ma la morte regnò da Adamo fino a Mosè anche su quelli che non avevano peccato con una trasgressione simile a quella di Adamo, che è figura di colui che doveva venire, Romani 5, 12-14. Se la morte fisica è entrata nel mondo tramite il peccato, significa che vi è in atto un'altra morte, e questa è la morte, o separazione, spirituale. Proprio perché l'uomo nasce morto, cioè separato da Dio, egli ha bisogno di ripristinare il suo rapporto con il suo Creatore. L'Eterno Dio disse tramite il profeta Ezechiele: «Io infatti non provo alcun piacere nella morte di chi muore, dice il Signore l'Eterno. Convertitevi dunque e vivrete». L'Eterno, con le parole «la morte di chi muore», voleva significare che egli non provava piacere della morte, cioè della separazione o perdizione spirituale di chi moriva fisicamente. L'Eterno ha usato il termine «morte» per ambedue le separazioni, quella spirituale e fisica. Anche Gesù usò la stessa espressione quando rispose a chi tentennava nel seguirlo: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Cioè, lascia che i perduti, i morti in spirito, si occupino di seppellire i morti fisicamente. L'uomo è dunque morto non perché pecca, ma pecca perché è morto. Essendo separato da Dio, la parola morte esprime tutto ciò che è negativo, ignoranza, peccato, tenebre spirituali. Questo principio del peccato fu pure riconosciuto da Giacomo, il fratellastro di Gesù, quando scrisse: «Nessuno, quando è tentato, dica: io sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male, ed egli stesso non tenta nessuno. Ciascuno invece è tentato quando è trascinato e adescato dalla propria concupiscenza. Poi, quando la concupiscenza ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è consumato, genera la morte». Giacomo 1, 13-15. Questo aspetto non deve essere dimenticato, soprattutto da chi è stato riconciliato con Dio mediante un atto di fede nel sacrificio di Cristo. Perché una volta messo in armonia con Dio, vi è la possibilità che questa riconciliazione o comunione venga interrotta dal peccato. È vero che la presenza di Cristo è costante con coloro che ha riscattati, ma è altresì vero che il peccato produce una separazione, un'interruzione del rapporto, della comunicazione. Questo spiega perché alcuni figli di Dio crescono nella conoscenza di Cristo, altri no. Negli ultimi vi è del peccato non riconosciuto e inconfessato. Come nessuno può andare contro una legge fisica, ad esempio la legge di gravità, così nessuno può evitare la legge del peccato. Chi pecca inesorabilmente sperimenta una morte spirituale con Dio, interrompe la comunione con Lui e solo un'altra legge può rimetterlo in comunione con Dio. La confessione del peccato e l'abbandono di esso. Proprio a causa di questo principio, l'Apostolo avverte gli Efesini: non contristate lo Spirito Santo di Dio, e i Tessalonicesi: non spegnete lo Spirito. La parola morte, con il suo significato di separato, ha dunque un solo senso, ma due applicazioni. Applicato al credente, a chi in altre parole ha realizzato la nuova nascita, significa che se questo pecca non è più in comunione con Dio, mentre applicato a chi non è nato di nuovo, a chi non ha posto fede nell'opera sostitutoria di Cristo, significa che egli è perduto, quindi in quanto tale rimane sotto condanna. Senza questo presupposto, è veramente impossibile comprendere la buona notizia del Vangelo. Quando Paolo disse che eravamo morti nei falli e nei peccati, voleva intendere che tutti, senza eccezione, anche dei religiosi come era lui, siamo per nascita separati da Dio, destinati alla perdizione. Morte e perdizione sono sinonimi per definire che l'uomo ha bisogno di salvezza. Come e cosa fare per essere salvati? Gesù disse che agli uomini è impossibile, perché ciò che conta non è ciò che si fa, ma quello che si è. Se si è perduti, figli del diavolo, 1 Giovanni 3,10, non rimane che un intervento divino, solo ed esclusivamente un intervento divino. Nella sua misericordia, Dio è intervenuto, è venuto a salvare ciò che era perduto, ciò che era ed è morto. Questo aspetto lo comprenderemo con il termine vita. Se il termine morte esprime tutto ciò che è lontano da Dio, il termine vita esprime tutto il contrario. Tutto ciò che avvicina e appartiene a Dio. Paolo lo esprime molto bene in una sola frase: il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore, Romani 6,23. Come abbiamo notato, la morte è la conseguenza, cioè il salario, del peccato, mentre la vita, cioè tutto ciò che è positivo, è un dono. Mentre la morte si merita, la vita non si merita. Cos è questa vita eterna? E forse un'esistenza migliore senza fine, un luogo di beatitudine, di pace, di gioia, di felicità, e forse un insieme di regole, e appartenere al regno di Dio. Cos è questo dono? Com è questo dono? Ad alcuni sembra impossibile, ma la vita eterna è una persona. Leggiamo nella prima lettera di Giovanni 5, 9-12. Se noi accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è ancora più grande, poiché questa è la testimonianza di Dio che egli ha dato circa il suo figlio. Chi crede nel figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio lo ha fatto bugiardo perché non ha creduto alla testimonianza che Dio ha reso circa suo figlio. E la testimonianza è questa. Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel suo figlio. Chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del figlio di Dio affinché sappiate che avete la vita eterna e affinché continuiate a credere nel nome del figlio di Dio. L'apostolo Giovanni non poteva essere più esplicito. Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel figlio di Dio. Chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio non ha la vita. Dio non dà a chi crede in Cristo una vita che sia staccata da Lui, da Cristo, che è la vita stessa. Come un padre dona un trenino a suo figlio, un dono quindi che non è parte della sua natura. Invece il dono di Dio a chi pone fede nel suo figlio è Gesù Cristo stesso, e ricevendo Lui, il credente riceve tutto ciò che gli appartiene, che fa parte di Cristo. L'apostolo Paolo, in un inno di vittoria, non ha potuto contenere la seguente riflessione. Che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Romani 8:31-32. Riflessione più che sensata. Un genitore che è disposto a sacrificare il proprio figlio non sarà molto più disponibile a donare le cose che appartenevano al figlio. Dopo aver specificato che la vita eterna è il figlio di Dio, Giovanni fa noto ai suoi lettori che poiché hanno creduto in Cristo, essi hanno la vita, cioè Cristo. Ciò concorda con quanto disse Gesù. Io sono la via, la verità, la vita. La via per andare in cielo non è un credo. La verità non è un insieme di giuste regole. La vita non è uno stato d'animo, ma il tutto è solo, da sempre e per sempre, Gesù Cristo. Ecco perché la vita eterna è eterna, perché Gesù, essendo Dio, è eterno. Ecco perché non è possibile perderla, perché si tratta di perdere non uno stato spirituale, ma una persona. Quando Gesù assicurò che lo schiavo non rimane sempre nella casa, il figlio invece vi rimane per sempre, Giovanni 8:35. Stava dicendo che, quando egli è entrato come padrone nel cuore di una persona, vi rimane per sempre. Il fatto che Cristo, cioè la vita eterna, entri in una persona è una verità poco chiarita. Alcuni non credono che questo sia possibile, ma ovunque nel Nuovo Testamento troviamo simili dichiarazioni. Lo disse Gesù stesso. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo a Lui e faremo dimora presso di Lui. Giovanni 14:23. Lo confermò l'Apostolo Paolo. Ora mi rallegro nelle mie sofferenze per voi, e a mia volta compio nella mia carne ciò che manca ancora alle afflizioni di Cristo per il suo corpo, che è la Chiesa, di cui sono stato fatto ministro, secondo l'incarico che Dio mi ha affidato per voi, per presentare compiutamente la parola di Dio. Il mistero che fu tenuto nascosto per le passate età e generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi, ai quali Dio ha voluto far conoscere quali siano le ricchezze della gloria di questo mistero fra i gentili, che è Cristo in voi speranza di gloria. Come è possibile che Cristo Gesù dimori in una persona, mediante lo Spirito Santo? La teologia paolina non lascia dubbi. Quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Se lo Spirito di Dio abita in voi, non siete più nella carne ma nello Spirito. Ma se uno non ha lo Spirito di Cristo, non appartiene a Lui. Se Cristo è in voi, certo il corpo è morto a causa del peccato, ma lo Spirito è vita a causa della giustizia. Romani 8:8-11. L'Apostolo Paolo dichiara che lo Spirito Santo abita in chi ha sperimentato la nuova nascita, identificando lo Spirito Santo con lo Spirito di Cristo. Poi dichiara apertamente che Cristo abita in chi è nato di nuovo. Quando la Scrittura afferma che Gesù Cristo, la vita eterna, abita nell'uomo, intende sostenere che colui che ha realizzato la nuova nascita è fatto partecipe della natura divina, 2 Pietro 1:4, mediante la rigenerazione dello Spirito Santo. Possedere lo Spirito Santo di Dio equivale a possedere Gesù Cristo perché la natura divina ed eterna è la stessa. Possedere Cristo equivale a possedere la vita eterna. Possedere la vita eterna equivale a possedere Cristo. Queste riflessioni sono ragione di tormento e di gioia. Sono ragione di tormento perché la parola di Dio dichiara che l'uomo, per quanto provi a fare per ottenere la vita eterna, è sconfitto in partenza. L'uomo nasce perduto, morto, vive nella perdizione, nella morte, la loro strada, come dice il profeta, è per loro come sentieri sdrucciolevoli, sono sospinti nelle tenebre e in esse cadranno. Geremia 23:12. L'esistenza di chi non conosce Cristo può essere attorniata dalle più grandi comodità, può essere costellata da prosperità e benessere, può essere interamente dedicata alle migliori e più nobili opere umanitarie, può anche essere la più rigorosa nell'osservare le leggi divine, può essere la più ascetica, la più religiosa, ma non toglie la cecità per ciò che riguarda le cose spirituali, né tantomeno evita. Egli vive ma è morto. Egli mangia, cammina, ride, lavora, ma vi è in lui una morte che produce un processo spirituale di morte che lo accompagna ogni giorno e che lo porterà, così come è, alla presenza di Dio. Questo è il dramma. L'uomo non comprende il messaggio del Vangelo perché per lui essere morto significa essere un cadavere, ma un discorso fatto 2000 anni fa deve essere inteso nel senso e nello spirito nei quali veniva pronunciato. Essere morto significa essere separato dalla vita che si trova solo in Dio. Queste riflessioni sono anche ragione di gioia per chi ha realizzato la nuova nascita. Un figlio di Dio sa che deve subire la sorte di tutti gli uomini, sa che poiché è innestata in lui la morte spirituale, il suo corpo è soggetto alla decomposizione, alla morte, ma sa pure che nonostante il corpo si disfaccia, nonostante ritorni alla polvere, perché polvere è, avendo la vita ora, quando morirà fisicamente, vivrà ancora la presenza di Dio. Su questo Gesù si è espresso in modo molto esplicito. Nell'episodio della morte di Lazzaro, leggiamo alcuni versetti. Marta dunque, come udì che Gesù veniva, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, ma anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. Gesù le disse: tuo fratello risusciterà. Marta gli disse: lo so che risusciterà nella risurrezione all'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chiunque crede in me, anche se dovesse morire, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morrà mai in eterno. Credi tu questo? Giovanni 11, 20-26. È impossibile comprendere ciò che Gesù ha detto se non si hanno i presupposti che abbiamo citato. Com'è possibile che un uomo che muore viva? Cosa voleva dire Gesù affermando che chi vive e crede in lui non morirà in eterno? Non muoiono forse anche coloro che hanno posto fede in lui? Con queste parole Gesù presentava a Marta l'essenza del cristianesimo. Egli ha promesso a chi crede in lui che anche se passa per la morte fisica, vivrà, perché è in comunione con Dio. E poiché chi pone fede in lui riceve la vita eterna, Gesù ha pure dichiarato che il credente non morirà più, cioè che il principio di vita, il rapporto di comunione con Dio, non sarà mai interrotto, per cui anche se dovesse andare nel sepolcro, egli vive, non vivrà, ma vive. Come si può vivere ed essere morti, così si può morire fisicamente ed essere contemporaneamente vivi. Questo è lo strano e impensabile messaggio che Dio ha dato tramite Gesù Cristo e gli Apostoli. Poiché tale messaggio non ha eguali in nessun campo, sia religioso sia filosofico, non è possibile rimanere neutri. O lo si accetta o lo si rifiuta. È vero che il messaggio di Cristo, cioè il Vangelo, è la buona notizia rivolta agli uomini, ma per coloro che lo rifiutano è una brutta notizia. Chi crede passa dalla morte alla vita, passa da una vita in disarmonia con se stesso, gli altri e Dio, ad un rapporto di comunione con Cristo, gli altri e se stesso. Chi non crede rimane, e mettiamo enfasi, rimane nella morte, in quello stato di separazione e di disarmonia Dio, con il prossimo e se stesso. Per avere la vita occorre cambiare, per rimanere nella morte non occorre fare nulla. E, per questo, che Gesù disse ad un religioso, in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Come è indispensabile nascere per far parte di questa esistenza, così è indispensabile rinascere per far parte della vita di Dio. Noi nasciamo morti, ma dobbiamo morire vivi. Chi non ha questo obiettivo si gioca una posta troppo alta per essere trascurata. Marzo 2004. Ellero.